Pennelli Ribelli non è il solito festival di street art, in quanto nasce per affrontare tematiche storiche importanti a noi care, come la resistenza, le lotte partigiane e la memoria storica, soprattutto se pensiamo in un'epoca come quella di oggi, in cui stanno uscendo fuori sempre di più razzismo, fascismo, movimenti di destra. Qual è il tuo punto di vista su questo festival? Diciamo che finalmente non è più un festival che ha come protagonista la street art, ma come protagonista la storia. Poi dopo, diciamo che la situazione che tu hai descritto in tre parole praticamente fa calzare ancora di più pennello la situazione, la decisione di fare un festival che ha come tematica la storia. E secondo me è una svolta più grossa di quello che uno potesse immaginare, perché se si pensa in generale, dove l'arte viene fatta per l'arte, dove viene fatta negli spazi per l'arte, dove il pubblico è quello dell'arte, qui invece si ha la tematica storica e tutto quanto viene fatto in funzione di quello lì. Quindi la cultura ha un ruolo molto diverso, un ruolo storico, un ruolo di memoria, un ruolo di riflessione sulla situazione attuale. Perché secondo me è proprio un cambio di tac. Se uno si capisce quanto è importante questo cambio, dopo te pensa quanto è importante per una persona che dalla mattina alla sera fa una vita di tutti i giorni, lavorando, sbattendosi, eccetera, eccetera, un muro decorato, fondamentalmente non gliene frega niente, cioè dobbiamo essere sinceri, si passa bello, lo vedi una settimana, e invece quanto è importante la memoria storica per riflettere, per educare i figli, per capire le notizie, per capire cosa sta succedendo sul posto di lavoro, quindi anche il ruolo che ha pitare un muro cambia moltissimo. Come avviene la diffusione della memoria storica attraverso l'arte? Cioè, quali sono i mezzi più incisivi per arrivare alle persone a ricordare? Ma allora, consideriamo un aspetto che siamo nell'epoca della comunicazione visiva e quindi il fatto di usare uno strumento visivo sicuramente è uno dei mezzi più efficaci che uno possa avere. La riflessione è al contrario, mi viene da pensare quanto non sia stata sfruttata l'arte urbana, l'intervento urbano, la street art per fare questo tipo di comunicazione, cioè finora la potenzialità è stata sfruttata pochissimo, 10%, 20%, invece insomma se uno passa, vede un'immagine e scatena una riflessione, quella è potente, a differenza di, non so, un articolo sul giornale o anche su internet che tu ti devi andare a cercare, vedere un link e poi approfondire, eccetera, eccetera. Come dipingere in una realtà piccola, provinciale come Marzabotto rispetto a una un po' più grande, magari già abituata all'idea di interventi artistici o addirittura festival di arte, di street C'è un piccolo particolare che fa molto la differenza, perché non è soltanto la realtà piccola, ma la realtà piccola che si è fatta il mazzo nella propria vita. Cioè, ed è dato di come ti interrompono e ti chiedono le cose, le persone. Se uno è nella realtà piccola o grande che sia, ma vedi che l'hanno fatto sempre una vita abbastanza col culo pesante, no? Ti viene lì e ti parla, magari sei concentrato, viene lì e ti parla, oh, perché qua, magari anche in maniera gentile, simpatica, però non ha idea del lavoro. Invece qui proprio si vede che le persone arrivano, stanno lì e magari le noti e non ti interrompono mai. Se tu scendi ti fanno una domanda. Come stai cercando invece l'ispirazione per questo muro? Hai trovato già qualcosa in particolare che ti ha colpito, che ti ha fatto riflettere? Allora, c'è stata la fortuna barra responsabilità del fatto che sul muro c'è già una lapide dedicata a un bombardamento che c'è stato americano e che ha colpito la cartiera. E in questo bombardamento sono morte 40 persone. E non soltanto c'è questa storia, ma questa storia in quel momento storico particolare dove c'è stato l'eccidio, dove ci sono state una serie di bombardamenti, è un pezzo di storia dimenticata. Pensare che una strage di 40 persone, dove sono morte 40 persone, era in quel momento nulla. Cioè, pensate quanto è pesante, no? Quanto è capitato in quel periodo per considerare 40 vittime nulla, cioè Nulla, nulla tra sì. virgolette, nel senso non. Quindi al centro di questo muro c'è questa lapide da cui è partito tutto e da cui bisogna avere un atteggiamento di, Di diciamo, cioè, di rispetto e rispetto, ed è di rimane protagonista la lapide, deve rimanere ancora più protagonista la lapide. Quindi l'intervento non è altro che far vedere questa lapide. Ultima domanda, sei l'unico artista emiliano fra quelli chiamati a intervenire qui. Qual è il tuo rapporto con questi luoghi e come ti senti nel poter dipingere proprio qua? Sì, Emiliano, Reggiano, della parte della montagna, vicino all'Linea Gotica, dove c'è stato martire della Bettola, martire di Cervarolo, praticamente ci sono cresciuto in queste storie. E la cosa che è rimasta, è difficile da spiegare a parole, è rimasto proprio una sorta di orgoglio, ma anche responsabilità rispetto a quelle persone che hanno vissuto qui, o hanno vissuto alla Bettola, hanno vissuto a Cervarolo, che sono i paesi della provincia di Reggio, che hanno subito delle stragi anche loro come queste qua, molto minori come numero di persone, ma pesanti uguali, e come un senso di rispetto e di responsabilità rispetto a quello che è successo. E te lo trovi fin da piccolo, perché non è che te lo trasmette perché lo leggi sui libri di scuola, te lo trasmette il vecchio al bar o quando ti racconta. Conta. che sua madre l'hanno ammazzata, e te lo racconta mentre prendi il caffè, tu dici, questo è potente. Sì. E quindi venire qua non è altro, perché c'è stato Sant'Anna, c'è stato Marzabotto, c'è stato Cervarolo, c'è stato Bettola, proprio c'è stato, come dire, parte di una cosa che già mi appartiene.